Before continuing this dialogue, here are some new words and phrases. As usual, ascolti, capisca, ripeta. Here's the first one. Di giorno. By day. Di giorno. Comprare. To buy. Comprare. Gli occhiali. Glasses. Gli occhiali. Gli occhiali da sole. Sunglasses. Gli occhiali da sole. Una buona idea. A good idea. Una buona idea. Al negozio. To the shop. Al negozio. Un amico. A friend. Un amico. Tempo. Time. Tempo. Ci. There. Ci. Listen to those new words and phrases again, then listen to the next dialogue. Ed ora ascolti il dialogo.